L'arcano intera chiudi e mia cura per te. Bella Costanza, mio re, qual mai ti stringo e qual nel cuore mi nasce in abbracciarti, tenerezza e piacer figli d'amore. Signor, da tua bontà l'alma sorpresa tace e i teni affette, più che il mio labbro il suo tacer palese. Soffro l'esano cuore, mesto e germano. Omai fiammeco a parte di quello scettro e di quegli ostri, o bella, che in benefico influsso già riservaro al tuo natal le stelle. Tu pur verrai Roberto, o di ceppo real, cerne ben degno. Oggi da voi riceva ornamento la reggia e gioia il regno. Grande re, troppo mio onore. Andiam, più non s'indugi, idolo mio. Segue il tuo piede, regge, regino.